Yo. Buon lunedì sera a tutti. Come tutti i lunedì sera, Ragnar Paisa in diretta. Te l'ha detto lui, brother. Già sai. Ha detto tutto i brother. Me l'ha detto. Buonasera a tutti, come tutti i lunedì sera, questo è Ragnar Paisa sulle frequenze di Controradio 055-73-999-33 per chi ci vuole bene e ci vuole telefonare info.ragnarpaisa@gmail.com chi ci vuole scrivere e ragnarpaisa.blogspot.com per chi vuole andare a scaricarsi tutti i podcast, i mix, le uscite, i beat tape e le... Un monte di roba. C'è di tutto di più. C'è di tutto di più. A gratis, ovviamente. Quindi cosa dobbiamo dire? Scriveteci, telefonateci se ci dovete dire di serate e noi se ci volete dire di stare zitti se ci volete dire di serate inerenti al nostro palinsesto potete telefonarci. Te sai niente di serate di questa settimana? No, si rimanda più tardi. Si fa un check generale. Comunque sì, cioè è un invito. Se ci sono cose che volete spingere, serate, avvenimenti, basta mandate una mail. Progetti, mandate una mail, mandateci mail info.ragnarpaisa@gmail.com e lo faremo con piacere. E noi siamo aperti. La serata di sabato? Serata di sabato al volume, il primo episodio di Grabber Soul con ospite Gabber Soul. Grabber Soul. Io, Grabber Soul. Anche cioè, volendo, nulla, non, cioè, nulla contro, però è Grabber Soul. Io ero venuto con un sacchetto, ero venuto a torso nudo pronto, e con la violenza addosso. Pronto a sudare, invece ho sudato e basta. Niente violenza, solo amore. Bon, comunque... Credo ci fosse 180 bpm. No, vecchio dimezzato. Comunque sì, è andata bene, no? È andata bene. Si aspetta il secondo episodio per il primo sabato di novembre con ospite God Bless Computer. Poi vi aggiorneremo più avanti. Più avanti, sì, avremo modo di parlarvene. Vai. Bene, Tommy è già in postazione. Pop-pa. E è il suo turno. Pop-pa. Ragnar Paisa. versus dreadlocks. And my left bobbling wearing a white shirt and weighing 250 pounds. And my right knotty dreadlocks wearing red, green and gold shorts and weighing 150 pounds. Security force, the referee, the whole world stand to see this boxing. 15 rounds of boxing. Round one and the boxing began. Bobbling with a lip and a round to the head of dreadlocks. Bobbling with a lip and a round to the head of dreadlocks. But the dreadlocks still bobbing and giving his love in his heart. Round two and the boxing continue. Dreadlocks on his bicycle bobbing and weaving. Bobbing and weaving. Bobbing and weaving. Lifting around to the head of dreadlocks. Slip you fool, cause you never go to school. Dreadlocks still bobbing and weaving. Round three and the boxing continue. As the dreadlocks come out of his collar bobbing and weaving. With love in his heart, I can see we're babbling with a lot of brute force and ignorance. A lippin' around to the head of dreadlocks. A lippin' around to the head of dreadlocks. But the dreadlocks still bobbing and weaving on his bicycle. Round four and the boxing still continues. Sean.

come, you feel free some bad ration. I say something happened on me yard, sir. Mr. Brown took my wife and him gone. I say something happened on me yard, sir. Mr. Brown take my wife and him gone. Mr. Brown take my wife and him gone, sir. And then left me and the four children down here. Mr. Brown take my wife and him gone, sir. And then left me and the four children down here. He said, Lord, what me I go do now? Me have to stay with my children. He said, Lord, what me going to do now? Me have to stay with my children. So me say, one a week we holla, one a ball, chuchi bodo. Someone with me holla, some a ball, chuchi boda come. Someone with me holla, some a ball, chuchi bodo. Someone with me holla, some a ball, chuchi boda come. Shall pass. Heaven and earth shall pass away, and I will come to judge every man according to his work shall be. So seek ye first the kingdom of Zion, things shall be given unto thee. Lift up your heads, O ye rebels, and all things shall be given unto thee. Fear not, for the Almighty dread, and every mouth shall be fed now. And I shall be very well. Work up yourself, the rebels. Fear not the Almighty dread now. Work up yourself, the rebels. Fear not the Almighty dread. Hearsay. Back way with that and come straight. If you are come, if you are come, you are come. Say them are the general, them are the big chief, the big chief. But the winning card in this game is how you got it. Is how you got it. Remember this little saying, that bush of ears, big sense out of nonsense. You'll get the answer. You got the answer. Bush don't have ears, my friend. Someone may be in it hearing what you have said about your brothers. Brothers, brothers. Hearing what you have said about your sister. Sister, sister. Hearing how you have made your own confession. Confession. Hearing what you have done in the past, cause every secret sin must reveal. So if you don't know what I want, ooh, yeah. Keep your mouth shut and don't say a word, y'all. Don't just say a word, y'all. Remember this little saying, that bush of ears, big sense out of nonsense. You get the answer. Look at the answer. Bush don't have ears, my friend, but someone may be in it hearing what you have said about your brothers, brothers, brothers. Hear it, what you have said about your sisters, sisters, sisters. Hear it, how you have made your own confession, confession. Hear it, what you have done in the past, cause every secret sin must reveal. So if you not know what I want, keep your mouth shut and don't say a word, y'all. Don't just say a word, y'all. Keep your mouth shut and don't say a word, y'all. Don't just say a word, y'all. Keep your mouth shut and don't say a word, y'all. Lo dijo yo, lo dijo yo. Lo dice lui, lo dice lui. Yo. Alla stasera Rasta Silly Action. Proprio dura, ecco. Stai benissimo, brother. Tracklist ve l'andate a leggere domani, insomma, ormai lo sapete. Dai, dacci due diritti, che t'assomano, brother. Non te lo dico. Speaking. Dai. Guarda, quest'ultimo erano i Gladiators. Oh. Così, tanto per dire, forse il pezzo più peso di tutti. Poi c'è che ho messo, non ricordo neanche più, Prince Farai, i Revolutionaries all'inizio. E poi non me lo ricordo più. Domani la vorrei leggere anche io la tracklist, perché non mi ricordo più che ho messo. Vabbè, comunque Ciccio impara dallo zio qua. Aspetta zio, perché Duccio mi ha lasciato il telefono, c'ho da dire questa roba qui. Allora, lunedì 8, dalle 14.30 alle 18.30 allo studio di via Bolognese 36 Rosso. Per quelli che sono a Firenze, Numa Crew vendono le copie di Erba 004 che siamo riusciti a recuperare dopo il fallimento del distributore New Urban. Esatto, c'è stato il fallimento di questo famoso distributore Jungle Drum and Bass. Quindi c'è stato il vecchio... C'è stato un folle recupero. Un folle recupero. Tra l'altro mi hanno raccontato la storia rocambolesca del recupero di questi vinili, che adesso sono in vendita appunto nello studio dei Numa in via Bolognese. Okay. Numero? Numero è... Lo ripetiamo. 36 Rosso. 36 Rosso, Ciccio. Rosso però, Rosso, tu lo sai, è il commerciale fiorentino. Bisogna stare all'occhio. Già c'è, sai. C'è scritto, tra parentesi, tra il 60 e il 62. Normali, non rossi, capito? Se proprio uno si deve perdere in via Bolognese. Col Tom Tom già sai dove andare. E lo zio lì che c'hai da dire? Lo zio qua, no, c'ho un numero di telefono, ma un'altra storia. Ah. Intanto ora noi vi lasciamo alla selezione di Duccio adesso, del buon vecchio. E vi anticipiamo che qua abbiamo un ospite speciale. Speciale. Che è Tormento. Allora, pensavo lo volessi dire. E noi, no, lo diciamo. Che ci anticipa un po' di prossime uscite e progetti suoi, tra cui quello con Primo Brown dei Corveleno e il Micro De Oro. E poi il nuovo progetto, con l'ultimo progetto con suo fratello Esa, ETMD, Esa Tormento Making Dollars. E insomma, poi vi lasciamo a poi. Va buono. Mr. Long Long Hair. A word, y'all. Don't just say a word, y'all. Keep your mouth shut and don't say a word, y'all. Don't just say a word. Biatch. Biatch. elevate again. Blast off to oblivion. The spark from my gun is bright as the sun. The 100 round drums, you launch a bullet. Brrrr, brrrr. The body's on the ground. Look at that, look at that. Brrrr, brrrr. Oh, how I love the sound. It's been so long since I held somebody out here doing wrong, unemotional. Save me. Want something spiritual, out of body experience, projecting astral. Come so natural with me. We got an obvious attraction, baby. Don't be scared. What's the point in acting stingy? All this love to share. If there's something on your mind, take your time. You spend your nights alone, let them niggas do you wrong. I don't wanna do no harm. Okay, Lamborghini Mercy. Yo chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk. Okay, Lamborghini Mercy. Yo chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk. Okay, Lamborghini Mercy. Yo chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk. Okay, Lamborghini Mercy. Yo chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk me. Drop it to the floor, make that ass shake. Whoa, make the ground move, that's an ass quake. Built a house up on that ass, that's an ass state. Roll my weed on it, that's an ass trait. Say yay, don't we do this every day, day? I worked them long nights to get a payday. Finally got pay, now I need shade and a vacay. And niggas still hating, so much hate, I need a AK. Now we out in Perry, yeah, I'm Perry A-ing. White girls politicking, that's that Sarah Palin. Getting hot, California Caden. I give her that D, cause that's why I was born and raised in. Okay, Lamborghini Mercy. Swerve. Yo chick, she so thirsty. Swerve. I'm in that 2C Lambo Swerve. With your girl, she tryna jerk. Okay, Lamborghini Mercy. Swerve. Yo chick, she so thirsty. Swerve. I'm in that 2C Lambo Swerve. With your girl, she trusty, trusty, trusty, trusty. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. We do, we do, we do, we do, we do. So fresh. So fresh, so fresh. Yes. Ha, ah. I remember her, she remember me. I liked her like a simile. She said you went up to Trinity. Collard green, all this is common scene. Ah, ask me, man, she was like nasty. She used to pass me. Rock, cause she know them side niggas be on that real shit. Baby girl, let me take you on a field trip. You on that yellow bus, I'm just joking. You as cold as some Delica. Testing when it come to dressing, you fresh and progressions up a good girl, gone bad, strong dad, all fat. You lust now with your bust out, getting cussed out, cause you won't speak to a nigga. Assumed you a freak by your figure, I'm frequent with liquor. Purple and blue stuff, I've been through stuff. You're tight. The man. Il tuo gruppo mischia alcol ed MD, poi sale sul palco e fa hardcore R&B. Maledico il giorno in cui decisi di iniziare, ora non vivo senza e ho una dipendenza da curare. J come Johnny, la M sta per Marsiglia, il mio cognome, il mio street name in onore alla mia famiglia. Su, sulle mie gambe e te lo giuro anche, fiero meticcio originale altro che puro sangue. E non ha senso se ti astieni, il mio team è forte come Assenzio per astemi. Generazione sotto sforzo, sotto i bilancieri, col mito del bilancino e l'incubo dei finanzieri. E non ha senso se ti astieni, il mio team è forte come Assenzio per astemi. Generazione sotto sforzo fa uno, due, io salgo su e uno. Check it out, I call it, yeah, yeah, yeah, yeah. For my brothers with daughters, I call this. For my brothers with daughters, I call this. For my brothers with daughters, I call this. For my brothers with daughters, I saw my daughter send a letter to some boy her age who locked up. First I regretted it, then caught my rage. Like, how could I not protect her from this awful fate? Never tried to hide who I was, she was taught and raised like a princess, but while I'm on stage I can't leave her defenseless. Plus she see me switching women, pops was on some pimp shit. She heard stories of her daddy thugging, so if her husband is a gangster, can't be mad, I love him. Never, for her I want better. Homie in jail, dead dad. Wait till he come home, you can see where his head's at. Niggas got game, they be trying to live. He seen your mama crib, plus I'm sure he know who your father is. Although you real, plus an honest kid. Don't think I'm slow, I know you probably had that chronic lid. You 17, I got a problem with it. She look at me like I'm not the cleanest father figure, but she rockin' with it. For my brothers with daughters, I call this. For my brothers with daughters, I call this. Not saying that I said a lesson. Yeah. I can dig it, I can dig it, I can relate, I can relate. I know what that life be about. I might not be standing on lines with them sneakers, but still stay fly, die trying by any means necessary. 23's on the feet at all times. Yeah. If you ain't a sneakerhead, you wouldn't get it. It's for my niggas waiting in line just to get it. I don't condone it, but I won't act like I never did it. Maybe once or twice up until I got a connection. If you cop the sneakers just to resell them, I don't respect it. That's fucking up the game, let's take it back to the essence. But I can't knock it, a lot of black boxes in my closet. Couple Adidas, weak Timberlands, and phone posits. Mayor told me where your sneakers was the reason. You bought them in the first place, let the world see them. I pledge allegiance to that Jumpman logo. When they bury me, make sure that I'm fresh enough for a photo. With my black cement threes on, superstar status be the theme song. It's more important things in life, don't get me wrong. We all got our vices, why you wanna judge me for? For my niggas with Jordans, I call us. For my niggas with Jordans, I call us. For my niggas with Jordans, I call us. I call us, yeah. For my niggas with Jordans, I call us. For my niggas with Jordans, I call us. For my niggas with Jordans, I call us. Guess you know why I walked away. When we walked to the altar, that was an awesome day. Did counseling, couldn't force me to stay. Something happened when you say I do, we go astray. Why did we mess it up? We was friends, we had it all. Reason you don't trust men, that was your daddy fault. He in the grave, let it go, he no longer living. Said you caught him cheating with mom and other women. Fuck, they gotta do with us. Here's the keys to the newest truck. Birkin bags, we burning cash. Now baby, do it up. No matter who you fuck, that was before me. Wanted you as my shorty since I saw you screaming. Hate you so much right now. Should've saw the meaning. Angry black women, actions of a demon. I'm leaving. I guess you knew it blew a good thing, baby. Bye, baby. Bye, baby. You know I'm saying bye-bye. Bye, bye, baby. And I just wanna let y'all know, I'm your pusher. The world is about to feel, something, biatch. Never pusher. Felt before. Come on. From ghetto to ghetto, the backyard to yard, I sell it whip on whip. It's off the hard. I'm the neighborhood pusher. Call me subwoofer, cause I pump bass like that jack on or off the track. I'm heavy. Yo, I go by the name of Pharrell, from the Neptunes, and I just wanna let y'all know, I'm your pusher. The world is about to feel something that they never felt before. Come on. From ghetto to ghetto, the backyard to yard, I sell it whip on whip. It's off the hard. I'm the neighborhood pusher. Call me subwoofer, cause I pump bass like that jack on or off the track. I'm heavy cuz ball to your fathers. You can duck to the Fetty Gov. Sorry, my love, but I'm seeing through these eyes. Benz convoys with the wagon on the side. Only big boys keep deuces on the ride. Gucci Chuck Taylor with the dragon on the side. Man, I make a buck, why scram? I'm trying to show y'all who the fuck I am. The Jews is flirting, be damned if I'm hurting. Legend in two games like I'm Pee Wee Kirkland. Platinum on the block with consistent hits. Why Pharrell keep talking this music shit? We'll be right back. Up straight for 9 days. I need a spot. Yup. She try and give me that poop. I might let my crew bang. My crew deep in that Wu-Tang. Fuck I'm saying. Girl, you know my crew name. You know 2 Chainz. I'm pulling up in that Bruce Wayne. But I'm man, they kneeling when I'm walking in the building. Freaky women, I be feeling. From the bank accounts, I'm feeling. What a feeling. Nah, man, ain't gotta feel. Young player from the D that's killing everything that he see for the go. Click, click, click, click. Click, click, click. Beh, beh, boh, non so. Dobbiamo dire giusto qualche uscita. Ce ne eravamo scordati l'altra volta. La prima che è fresca fresca ed è il primo album solista di Fidmella. Ah già, sì, ho visto che il post su Blue Nox che esce per NPM, la solita etichetta per la quale era uscito altre robe sue in compile, e su iTunes o sul sito NPM Store lo trovate di già in digitale, e in forma fisica esce il 12 ottobre e lo potete ordinare sempre da npmsite.com oppure da Hip Hop Vinyl. Poi è uscito per Macro Beats, cioè alla fine dell'estate, il disco di Mecna. Ah, è vero. E lo potete ordinare da Blue Nox, dal sito di Blue Nox. Good. E è uscito da un paio di settimane, 10 giorni, il disco di Big Joe e Johnny Marsiglia. Unlimited Struggle, quindi andate sul sito Unlimited Struggle e ve lo ordinate lì, oppure iTunes e vi prendete il digitale. Unlimited Struggle, baby. Unlimited Struggle, Unlimited baby. Poi no, volevo dire l'altra volta, poi vabbè, ci si è persi perché era la prima puntata, no? Però nel frattempo che eravate tutti in ferie, noi abbiamo messo sul mix altri due, sul blog altri due mix. L'ultimo era di Duccio, The Dark Side of Tassoni, sta sempre lì, andatevelo a prendere. Prima ce ne avevo fatto uno io, si chiama The Fields of Mars Session, e tutti i brother di Campo di Marte. E vabbè, dentro c'è un po' di tutto, andate per tutti quelli che da Firenze Sud, esatto, sono emigrati a Campo ma non di scordano Marte. Firenze Sud. Ma non scordano Firenze assolutamente. Sud. Assolutamente. Bon. Aspettando qua la situazione che maturi la situazione, vi lasciamo a Colossius. Yo. The break was so loud that it hushed. Now, quiet and still and sunk to one and thus begun to test my pool room skill. Control radio. I put English on the cube and drop the two. The second, the three, the four. Continue my drive by banking the five while spoon can pack the score. I drop the six, then just the kicks. Sank the seven and eight. Pocketed the nine to ten. And chalked it again. My spinach been pondered his fate. I need one more shot to win this pot. While Slim was praying that miss, but this hell was my heaven when I sighted the 11 and sank it on a rail shot. Rock, rock. cosmic. Training, prof logic. So mad. Automatic defense procedures initiated. I'm a cosmic motherfucker, so I pass out of space recording. The hottest shit ever taking place. Let you kiss the ground like a leaf. Hit the floor, man, like Jordan. I fly, how is it? Never gets boring. Step into the space suit, fly one day, two, three, four. This is my desire, what I do. Getting higher, so I go through the fire. Been a sire, going outrageous and never will retire. Intergalactic, I am Beastie Boy. My money, your problems, your fear, my joy. Okay, the galaxy, just to disrespect me. I go one by one, taking them secondly. Cause I am an astronaut. Let you dream of me in astronauts. Astronauts like Kooky, the living astro. Then you can have my autograph if you act so nice, bitches. This is what I forgot I gotta say to y'all. Gangnam Style. Hello. Are you our daily friend? Yes. Unmanned from phone number 770021. Yeah, I know. This is $50,000. Thank you. Good luck. Good luck. We'll be right back. Bella Torme. Che bomba, un onore, Viga, che stile. Onore tutto nostro. Tormento is in the house. Ragnar Paisa. Stracontento anche per quando sono in macchina in giro per Firenze contro radio pompa forte nel mio stereo. Quindi oggi essere qui è un onore. È un onore anche per noi. Ormai sei fiorentino, no? 100%. Diglielo. Fatti un piacere, sono 3 anni che abito a Firenze, sono ingrassato come un porcello perché si vive veramente benissimo qui. Poi in centro Italia, dai, è veramente una città piazzata benissimo, se devi viaggiare tanto, suonare, vai dovunque in un attimo, è molto figo. È così, a noi ci piace e qui. E poi ho trovato dei pazzi come voi, super scena, veramente wonky all'avanguardia, come ci piace. È il wonk, è il wonk fiorentino. E allora, man, senti, mentre aspettiamo qua che parta la bambola musicale, dici un po' di, raccontaci un po' delle tue ultime produzioni, i tuoi ultimi progetti, stai girando a palla, io qua su Instagram tutta l'estate ho visto solo delle autostrade alle 6 del mattino targate Tormento vs Yoshi. Com'è questa storia? Raccontaci veramente un po'. Dai, il rap è tornato veramente così in auge, si dice, sta vivendo un bel momento d'oro e sono contento anche che noi un po' della vecchia, quei pochi che sono rimasti, che poi mi fa strano perché io ero la nuova scuola quando ho iniziato a rappare e quelli della vecchia mi menavano tutte le volte che potevano o mi volevano menare e invece adesso sono diventato io della vecchia. Fa strano. Rimaniamo sempre un po' dall'animo tamarro comunque, quindi però cerchiamo, come ti dicevo, ora che il rap va di moda e va anche un determinato suono pop quasi commerciale mescolato con la dance, invece noi ci teniamo, io ci tengo come me il funk prez, sto lavorando tanto con Primo, anche a dare un po' un'altra faccia di quello che è l'hip hop, che in tutto il mondo è comunque presente, anche se sempre meno rispetto al pop, però in tutto il mondo c'è lo spazio per l'underground, per quei gruppi un po' più grassi, un po' più seri, in Italia invece è sempre un po' più difficile, bisogna crearsi il proprio spazio e essere un po' bravi da soli a proporsi se sei un artista indipendente, è difficile trovare sia etichette, agenzie che veramente lavorino un po' più in basso che non sia il pop, ma non meno importante per questo, no? Io penso che culturalmente abbia più importanza un lato underground ricco, culturale, ricco anche di temi interessanti, no? Su quello direi che non ci si può lamentare parlando sia internazionalmente che, che a livello nazionale, che comunque anche a livello locale stesso le produzioni sono tante, la situazione è florida, esce roba anche, diciamo fra virgolette, poi il buono è soggettivo, cioè ciò che piace è soggettivo, però insomma fa piacere che escono parecchie cose che suonano in maniera differente, più elettroniche, più soul, no? Anche poco fa Johnny Marsiglia con Big Joe, quindi ci sono proprio dei nomi nuovi, abbiamo sentito proprio poco fa su questa radio, quindi ci sono veramente tante cose belle che stanno uscendo nell'hip hop, come dicevi tu, ma anche nell'elettronica. Quello che cerchiamo di fare anche un po' io, ESA, come lavoro anche proprio di proporre anche agli artisti metodi nuovi, lavorare come voi promuovete, no, su Bandcamp, e praticamente ti stampi tu e produci tu la roba che produci, la pubblichi direttamente, è un passo comunque in avanti assurdo per noi che invece abbiamo lavorato con i vecchi schemi e le vecchie leggi della discografia. Quindi il bello di oggi anche è proporre dei nuovi modi di promuovere la propria musica, anche perché non serve fare dei video bruttini e poi pubblicarli su Facebook a rotella e rompere le scatole a tutti. Invece serve saper lavorare bene, coltivare bene il proprio progetto, anche per gli artisti che mi chiedono sempre come fai a girare tutta l'Italia, a suonare dovunque. In realtà dopo il periodo di massa dei Sottotono in pochi sono rimasti a seguirmi e io sono andato di città in città a prenderli per i vestiti, a tirarli per la camicia, a fargli vedere che ancora facevo le cose. Ed è più quella la strada che io sempre consiglio un po' anche agli artisti e a chi vuol promuovere oggi la musica, il web, usatelo in maniera intelligente per arrivare alle persone, ma non solo col chat che si fa su Facebook e in giro così di robe un po' inutili, ma con la musica bella, con degli argomenti belli e creandovi proprio un vostro pubblico, anche piano piano, ma sicuramente più serio. Io cioè, il contenuto, mi raccomando, non ce lo scordiamo, per favore. Video a palla, storia a palla, fan 2000, ma per favore il contenuto daccelo. E insomma, intanto ricordiamo un Bandcamp di Capitan Futuro, capitanfuturo.bandcamp.com, che è il Bandcamp di tuo fratello, dove si possono scaricare a gratis e a pago le tracce del prezzone di Esa Funk Prez. Te vuoi il tuo Bandcamp, una cosa dove si può andare a scaricare la tua musica, a comprarla? Yes, io sia Skunky Funk Bandcamp, anche se pian piano quello là lo sto un po' arricchendo delle mie produzioni, dei beat. E poi naturalmente c'è tormento.it, dove ci sono anche vari podcast, un po' per chi vuole, come la musicaccia che spingete qua, New Soul, Wonky, un po' di artisti che in giro purtroppo non si sentono tanto, e quindi secondo me più si riesce, in più strade si riesce a portare. E anche il sito ha vari podcast da scaricare, un po' di news, video da vedere, quindi tormento.it, più che andare su Facebook a scrivermi le mail inutili che non gliela facciamo a stare dietro. Si offende la gente su Facebook se non rispondi alle mail. Torme, rispondi, no? Vai. Se c'è Frank, Mr. Frank ai controlli. Mr. Frank, un altro pazzo, nuovo acquisto di Firenze. Portato da Chivasso, Torino, trasferito a Firenze anche lui, a spingere un po' di quel wonky stand. Questo è un bitaccio di Mr. Frank. Suonala ancora, Frank. Yes, yes, yo! E per chi è della vecchia scuola riconosce l'intro di Goodfellas. Quei bravi ragazzi dal 96 sono ancora in giro, low Saima. Vi porto verso il futuro. Si è parlato poco fa dell'album di Fidmella appena uscito. Questo beat è di Fidmella. Un po' di rime live. Dove siete, Roy? Where you at, bro? Where you at, Evo? believe in all of yours. And here we need all of yours. So where you at? Where you at, bro? Where you at, heroes? Believe in all of yours. Tanto sei già qui, cosa non va? Non siamo noi certo qua, quel che si può si fa, bro. Non immagini qui cos'ho, tu cosa mi porti? Dammi un po', you know we need that, though. Feed me la porta, il fuoco e gangialo verso l'amore. Al resto ci pensiamo dopo, in ogni dove recute nuove bimbi di cristalli in una gioielleria. Tutto l'oro è dietro un vetro qui, niente roba mia. Come mi usi il mio lavoro, tutta la mia energia. Ti sei preso la mia libertà, adesso che mi porti via. Quando si mette male devi essere un superuomo. I miei guerrieri della luce dove sono? L'ispirazione è solo l'inizio, un film che ti scrivi. Come ti vedi? Quanto è vero di tutto quel che vivi? Non vedi? Lo sai se tu decidi. Oppure ti fai sempre riferimento alle emozioni negative. Lo sai come me la vivo quando sono su Controradio. Lo sai, io non scrivo, è freestyle per la mia gente là là fuori. E io dove siete per i sacchi e sdolori? Where you at, bro, bro? Where you at, heroes? We need it all of yours. We need, all of yours, huh? Where you at? So where you at, bro? Questa nazione ha bisogno di eroi, assolutamente di eroi. Ormai chi ha la mia età, una certa età, sa che questa Italia funziona con un tappo in alto. Vecchie generazioni che si rubano tutto. Lasciate un po' di spazio ai giovani e chi non è più giovane. Date un po' di possibilità agli altri. Più cultura, senza nessuna, nessuna, ora nessuna eccezione. Siamo qui per ricostruire una nazione, non con i soldi e il potere di chi fa il padrone. Bro, basta forza di volontà, qui si fa la rivoluzione. Prima di tutto interiore, lì dove nasce tutto, dove il tuo ego muore, risorge il sole, parole nuove, basta parole vuote, è la nuova era, bastano due sole note ad accelerare il mio stato vibrazionale. Meno male questa musica ci può salvare, elevare alla ricerca di un'identità. Questi quasi si deformano la tua realtà e poi sono davvero tuoi. Pensieri, desideri e sono prodotti di chi si fa gli interessi suoi. Lo sai come va, Super MC. Mi sa che ogni lunedì ci ritrovi qui, bro. Frank siciliano, Unlimited Struggle. Yes, lo sai. No, non c'è nessuna via per te, un'uscita per me. No, no, no, no, no, no, non c'è. Non c'è una via d'uscita, no, biga. Qua in Italia è un disastro, non ne usciamo più. Dicono che se ne esce, ma un'uscita non si vede. Da qualche parte si finisce. Diglielo, speriamo, mamma mia. No dai, l'Italia poi devo dire non ha avuto pieghe razziste o troppo estreme, eh. In questi periodi difficili c'è il rischio veramente che la gente perda la capa. Mi raccomando, mantenete la calma, un sacco di gente sta perdendo il lavoro. Però veramente io che il mio lavoro l'ho perso quando mi hanno tolto il giochino di sottotono. Cercate veramente di capire qual è lo step successivo, cosa la vita è in serbo per voi. Sicuramente un motivo c'è se le cose accadono, no? È un po' un momento difficile, le parole e la musica possono aiutare. Senti Frank, cosa pompa? Questi consigli è oro che cola, eh? Ma non è che purtroppo non valgono i soldi per pagare le bollette che ci stanno addosso tutti i mesi. Però la musica, dai, veramente, io anche in ESA ho un po' questo esempio qua, che spinge l'underground anche nei momenti più difficili dell'hip hop, spinge le robe serie, bisogna. Yeah, yeah, we have no side. Un po' di musicaccia seria, sei un po' di skunk, falla super Mr. Frank, lo sai come va un beat live. Ed ogni sera col biga, come ieri in studio, lo sai, Rig Riga, si registra una strofa, non so cosa si fa. L'importante è produrre sempre solo buon rap, hip hop. Ci vediamo tutti a Novoli per vedere il mega film di Ice-T, mi raccomando. Bella Colossius, super freestyle mega, quando sono con la mia gente rega, lo sai, rilassato come sempre. We live, adesso se sfonderemo Firenze, no. Tell them, diglielo com'è. A fuoco Firenze, brucia. Mi hanno detto che anche Inoki si vuole trasferire a Firenze, magari sarà ben accolto. Oh Frank, abbiamo un botto di roba da passare, buttare un'altra, Frank. Mr. Frank da Torino, cosa ci offre? Ai controlli, ragazzo? Lo chef. è da poco fiorentino, you know? Yeah. O vengano tutti qui, vengano tutti qui. Vai Frank, gli ultimi 5 minuti di Ragnar Paisa, secondo episodio, featuring Tormento e Mr. Frank. Yeah. Passato vinilico, suono il meglio in un mix specifico, pompando i bassi, mia figlia Shanti è contenta se c'è lo zio Massi, nuova generazione senza confini sbalzi, continui, un bacio all'amore mio che sopporta nei minimi, da un consiglio alle maglie calzini, e ridiamo felici in mezzo ai casini e ai carichi pesi, con la voglia di un domani più bello di ieri, coi fratelli e gli amici veri, alziamo i bicchieri, e yo, ETMD, chili di rime sui beat, vitamini che liriche libere, facciamo di necessità virtù, esotorme make dreams come true, yo, ETMD. Sentenze, no sense, dense bugie senza facce insensabili sentenziano dai loro troni babilonesi, ma dai poteri psicocinetici e trama, quindi li trovi isterici, istrionici, artistici in crisi mistica.